Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Are slippery and enticing. These are my places off the rail. And this, my loose recollection of a falling. I barely. Buongiorno e ben ritrovati, questa è Restiamo Animali, il programma animalista, antispecista e vegan che guarda al mondo di tutti gli animali, umani e non. Una trasmissione che va in onda da 8 anni. E oggi siamo giunti alla puntata 535, nella quale parleremo della giornata mondiale degli animali da laboratorio, di benessere animale e della relativa certificazione volontaria, la nuova inchiesta di Indovina chi viene a cena, della tragedia che si sta consumando nel parco Virunga in Congo, animali e rangers sempre più in pericolo, e di Amazzonia e coronavirus. Il fotoreporter Salgado lancia un importante appello. Il tutto, come sempre, verrà squisitamente condito dalla ricetta del nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni e accompagnato da un'elegante e ricercata scaletta musicale curata dal nostro Giuseppe Coco. Cominciamo la puntata con una notizia che speravamo di non dovervi mai comunicare. Martedì 28 aprile è stato ricatturato l'orso M49 dopo una fuga durata 9 mesi. L'operazione è stata eseguita dagli uomini del Corpo Forestale del Trentino sui monti sopra Tione, nelle Giudicarie, ed è stato trasportato di nuovo nel centro di recupero della fauna alpina di Casteller, a sud di Trento, ovvero nel luogo dove era già clamorosamente fuggito. Per la cattura è stata utilizzata una trappola. Subito la risposta delle associazioni animaliste, tra cui la Lega Antivivisezione, che ne chiede l'immediato rilascio. Anche perché la prigione di Casteller, si legge nel comunicato stampa, non è compatibile con le sue caratteristiche etologiche. È un'inutile crudeltà nei confronti di un animale, continua il comunicato, che come noi ama la libertà e ne ha difeso il diritto in una disperata fuga durata 9 mesi. Un animale che, pur avendo percorso centinaia di chilometri, sottolinea ancora la LAV, non ha mai costituito alcun pericolo per l'uomo e che ora sarà condannato all'ergastolo solo per aver mangiato del cibo malamente custodito in alcune baite in alta quota. Drammatico momento che stiamo vivendo legato alla pandemia da coronavirus sta spingendo ognuno di noi a riflettere sempre più sul delicato rapporto tra esseri umani e altri viventi. Ma la paura del contagio allo stesso tempo non permette di sviluppare alcune riflessioni profonde che ora più che mai dovrebbero emergere, tra cui quelle legate all'utilizzo degli animali nell'ambito della ricerca medica, la sperimentazione animale. E invece proprio in questa fase di urgenza che scienza e ricercatori pretendono a gran voce di essere lasciati liberi, liberi di sperimentare sugli animali. Vale più la vita di un topo o la vita di un bambino era ed è lo slogan spesso utilizzato dai ricercatori per mettere in difficoltà i difensori dei diritti degli animali. E oggi è con un rinnovato slancio che la comunità scientifica spinge ancora di più per la ricerca con gli animali, mettendoci in condizione di dover scegliere ancora una volta tra vaccini subito e quindi anche sperimentazione animale o il contagio. Un'operazione scorretta e ingiusta. Oggi più che mai è dunque opportuno riconsiderare il rapporto tra umani e animali e il tema della sperimentazione animale. La riflessione del nostro Lorenzo Guadagnucci in occasione della giornata mondiale dedicata agli animali da laboratorio, che ricorre ogni 24 aprile. Ascoltiamo. La LAV Lega Antivivisezione stima che ogni anno in Italia circa 600.000 animali siano sottoposti a trattamenti di sperimentazione e poi uccisi nei laboratori di ricerca, una cifra che sale a 22 milioni in Europa, 192 milioni nel mondo. Sono passati oltre 40 anni dall'uscita del famoso libro Imperatrice Nuda di Hans Ruesch, il primo importante saggio critico sulla sperimentazione scientifica sugli animali, e alcuni progressi sono stati fatti. Esistono oggi leggi che limitano la sperimentazione sugli animali, dichiarandola residuale, e ammessa cioè una volta che siano escluse tutte le altre ipotesi di indagine. È poi riconosciuta, perfino agli studenti universitari delle facoltà scientifiche, l'obiezione di coscienza. I ricercatori possono cioè rifiutarsi di partecipare ad attività di laboratorio condotte a danno degli animali. E tuttavia, nonostante questi progressi, questi limiti, questa indicazione di fondo verso il superamento della sperimentazione sugli animali, l'establishment scientifico ha continuato a reputare la ricerca sugli animali centrale e imprescindibile, per quanto sia una tecnica vetusta e pur dovendo passare ogni farmaco attraverso un test sugli umani, per evidenti ragioni di incompatibilità di specie. Lo stesso establishment continua a protestare contro i vincoli e i limiti posti alla sperimentazione e lo fa con foga crescente in questa fase di pandemia da coronavirus. L'establishment chiede meno regole, meno impedimenti, più libertà di usare gli animali. Si sono distinti in questa scomposta campagna i ricercatori già noti per essere fra i più oltranzisti, come Elena Cattaneo e Silvio Garattini. Eppure c'è anche un'altra scienza. Ci sono ricercatori che hanno abbandonato il vecchio modello animale e sperimentano tecniche nuove per indagini e test. Scienziati che hanno smesso di considerare gli animali come oggetti a loro disposizione e che sostengono che il modello animale sia in verità un freno alla ricerca, un freno mantenuto per l'inerzia dei vecchi sistemi e dei connessi ambiti di potere. La sperimentazione animale resiste al cambiamento perché è al centro delle attenzioni, dei finanziamenti, delle occasioni di carriera. È per tutto questo che gli scienziati dell'establishment tendono a dimenticare che la scienza sta cambiando, inevitabilmente, e che non esiste più un pensiero unico rispetto all'utilizzo degli animali. La pandemia poi sta gettando nuovi fasci di luce sul mondo della scienza e della ricerca. Gli esperti hanno occupato in questa fase la scena del discorso pubblico, sia pure con esiti controversi, non sempre convincenti. Ma il punto è che la scienza non può vivere separata dal resto della società e anzi deve dialogare con questa e dovrebbe quindi dare un contributo a evitare il rischio più grande in questa fase delicata, e cioè la rimozione delle cause delle pandemie, che proprio i migliori scienziati a suo tempo hanno messo a fuoco. Le epidemie sono sempre più numerose e sempre più devastanti a causa di un modello economico e ideologico che porta a distruggere gli ecosistemi e a compromettere gli spazi di vita degli animali selvatici. All'origine di tutto, allora, c'è una relazione malata con gli animali non umani. La scienza del futuro, se non vuole ridursi a scientismo, a mera tecnica di riparazione dei danni di ultima istanza, deve misurarsi con questa verità e aiutare la società a prevenire le pandemie future. Deve immaginarsi in una relazione nuova con il vivente, che non è materiale di laboratorio da usare a piacimento perché si è sempre fatto così. La sperimentazione sugli animali è il passato, nemmeno tanto glorioso. La scienza del futuro, quella su cui dovremmo investire nel presente, è la scienza che ha una visione d'insieme e aiuta l'umanità a intrattenere rapporti nuovi e diversi con il resto dei viventi, affinché tutti abbiamo un futuro degno di essere vissuto. A questo, ci pare, dovremmo pensare in questi giorni difficili. Thank you. be proud of me. And then I just wanted him to make amends. I wonder what lies is telling you about me to make sure that we'll never be friends. And it's a shame because you and I didn't get a witness. We're the only ones who know. We were cursed the moment that he kissed us. From then on, it was his big show. I grew concerned when I saw him start to covet you. When I learned what he did, I felt close to you. Went my own way, I fell in love with you. But he's made me a ghost to you. I watch him let go of your hand. I wanna stand between you, but it's not what I'm supposed to do. I watch him walk over, talk over you, be mean to you. And it makes me feel close to you. It makes me feel close to you. It makes me feel close to you. It's not what it's supposed to do. It makes me feel close to you. I too wanted to make him proud of me. And then I just wanted him to make amends. I wonder what make sure that we'll never be friends. And it's a shame because you and I didn't get a witness. We're the only ones who know. We were cursed the moment that he kissed us. From then on, it was his big show. From then on, it was his big show. From then on, it was his big show. And you're wearing time like a flower. Let go of your hand, I won't stand between you. But it's not what I'm supposed to do. I watch him walk over you, talk over you, be mean to you. And it makes me feel close to you. And you're wearing time like a flowery crown. Sitting there, big cap down. And I'm puntata fa vi avevamo raccontato come molte associazioni del mondo zootecnico italiano avevano attaccato le trasmissioni televisive in onda su Rai 3, Sapiens e Indovina chi viene a cena, definendo i loro messaggi assolutamente fuorvianti. In queste trasmissioni si era cercato di analizzare possibili collegamenti tra la pandemia in corso e gli allevamenti occidentali. Alla lettera aperta delle associazioni zootecniche hanno risposto con un'altra lettera aperta al presidente e al consiglio di amministrazione della Rai, diverse associazioni e organizzazioni a sostegno del giornalisti attaccati. Firmatarie della lettera sono Essere Animali, Animal Equality Italia, CWF Italia, EMPA, Greenpeace Italia, Human Society International Italia, LAV, Legambiente e l'associazione Terra. Intanto, proprio su Rai 3, uno dei programmi nel mirino della lobby di carne e latte torna alla carica. È sempre Sabrina Giannini che con la sua trasmissione Indovina chi viene a cena, questa volta con una puntata andata in onda domenica 26 aprile, ha spiegato cosa si cela dietro la certificazione sempre più diffusa di benessere animale. Attraverso verifiche sul campo e documenti, la giornalista ha esplorato questo universo con differenti metodi di allevamento e certificatori per vedere se davvero è migliorata la vita di 620 milioni di mucche, polli, maiali allevati in Italia ogni anno, da quando è comparsa l'etichetta benessere animale. Vivono davvero meglio questi animali o è solo marketing? Si chiede la giornalista. In una nota consultabile sul sito di Essere Animali, l'associazione che ha fornito alcune delle immagini andate in onda durante la trasmissione, in realtà emerge come più che parlare di benessere animale, alcuni requisiti minimi previsti dalla legge, oltre a non essere nemmeno rispettati, vengono considerati loro stessi come fattori costituenti la certificazione benessere animale. Ad esempio, l'associazione evidenzia come uno dei parametri che consente la certificazione benessere animale è la presenza nei box di stabulazione dei vitelli di finestre che permettono agli animali di socializzare fra loro. Ma questo aspetto, dichiara Essere Animali, oltre a non dover essere un parametro di certificazione perché già un requisito richiesto dalla legge nelle norme minime per la protezione dei vitelli, non è nemmeno rispettato. Ma addirittura, continua Essere Animali, le certificazioni benessere animale vengono rilasciate anche nel caso l'animale provenga da allevamenti situati all'estero e abbia viaggiato per giorni per essere ingrassato o macellato in Italia, senza sapere nulla del passato di questi animali. La trasmissione mostra poi alcuni allevamenti di maiali che rispecchiano lo standard attuale, documentando come la gran parte di questi non rispettino nemmeno la legge, continuando a praticare la mutilazione sistematica della coda, ad esempio, che tra l'altro è un'operazione vietata nell'Unione Europea da oltre 25 anni. E questi sono solo alcuni esempi. Ma chi rilascia dunque le certificazioni di benessere animale? È il CSQA, un ente che dichiara Essere Animali, ha svincolato ogni tentativo di intervista approfondita e si è limitato a rispondere di affidarsi prevalentemente all'autocontrollo delle aziende stesse. Insomma, pare che questa etichetta sia più un'operazione di marketing per portare avanti un'industria violenta e irriformabile. I see another side, maybe just another light that shines. And I look over now through the door, and I still belong to no one else. Maybe I hold you to blame for all the reasons that you left. And close my eyes. Ed è il momento di scoprire la ricetta di oggi, curata come sempre dal nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni all'interno del suo spazio etico gastronomico Il Pasto Gentile. E vi ricordiamo che tutte le ricette, così come le puntate, sono riascoltabili in podcast sul sito www.restiamoanimali.it. Il Pasto Gentile, un frigorifero senza crudeltà. Primo maggio, su coraggio, cantava un giovanissimo Umberto Tozzi alla fine degli anni 70, ma direi che oggi cade proprio a fagiolo. Solitamente sarebbe stata l'occasione per una bella scampagnata, ma non arrendiamoci e magari organizziamo un picnic in giardino o in salotto. Io vi posso aiutare dandovi la ricetta di una bella torta salata da mangiare anche fredda. Gli ingredienti per 4 persone per la torta salata al farro con pomodori, zucchine e fiori sono 100 g di farina tipo 0, 100 g di farina di farro, 40 ml di olio extravergine di oliva, 30 ml di olio di semi di girasole, 50 ml di acqua, sale, due zucchine con il fiore, uno spicchio di aglio, della menta fresca, 5 o 6 pomodorini, dei fiori di borragine, 250 ml di besciamella vegetale, 20 g di farina di ceci, un pizzico di curcuma in polvere, sale e pepe. Iniziate preparando la pasta bisè. In un recipiente mescolate le due farine e impastate assieme ai due tipi di olio, l'acqua e il sale. Avvolgete nella pellicola e lasciate riposare per 30 minuti in frigorifero. Nel frattempo tagliate le zucchine a quadretti e fatele rosolare in padella con olio extravergine di oliva e lo spicchio di aglio in camicia schiacciato. Aggiustate di sale e pepe e a fine cottura aggiungete qualche foglia di menta spezzata a mano. Tagliate i pomodorini a metà, privateli dei semi e lasciateli scolare in un colino. A parte, diluite la farina di ceci e la curcuma con poca acqua, oppure brodo o latte vegetale, e unite l'impasto alla besciamella. Fate cuocere qualche minuto, quindi togliete dal fuoco. Stendete la pasta brisè ad un'altezza di mezzo centimetro e foderate una tortiera da crostata. Bucherellate il fondo con una forchetta e fate cuocere a 180 gradi per 10 minuti. Togliete dal forno e farcite con la besciamella. Decorate con le zucchine, i pomodorini, i fiori delle zucchine e i fiori di borragine e qualche foglia di menta. Rimettete in forno per 15 minuti e lasciate raffreddare prima di servire. Staring out the window of this hotel room. The waxing and waning giant nor the moon. Brother Aldo, are you good for a few more bucks? I promise someday soon I'm gonna change my luck. The rain is making rivers of the Stockholm streets, soaking through my coat, through my boots, to my feet. No one can ever tell me when enough's enough. Descending every ladder to the final rung. I pay for this pain I'm running through my blood. La Repubblica Democratica del Congo e il suo quasi centenario parco Virunga stanno vivendo dei giorni davvero bui e drammatici. Alcuni giorni fa sono state uccise 19 persone a una quarantina di chilometri da Goma, capoluogo della provincia del Nord Kivu. Tra le vittime almeno 13 erano rangers. Sono molti gli interessi economici che si scontrano con la conservazione di questa zona: bracconaggio per il commercio illegale, avorio, disboscamento, pesca illegale e petrolio. Il Virunga, oltre a essere la patria dei gorilla di montagna e di altre specie protette, è anche nascondiglio e rifugio di movimenti ribelli, che già in passato hanno attaccato e ucciso guardiani e rapito turisti. Lo stesso direttore del parco, Emmanuel de Merod, qualche anno fa era stato assalito da un commando e solo per miracolo ne era uscito vivo. Il parco si conferma così una delle aree protette più pericolose del pianeta. Negli ultimi 20 anni sono morti quasi 200 ranger per difendere il parco, che accoglie nei propri confini alcuni degli ultimi rarissimi gorilla di montagna. I rangers sono i migliori amici dei gorilla di montagna, ma sono i principali nemici dei gruppi ribelli, in quanto costituiscono l'ultimo ostacolo prima di impossessarsi delle risorse naturali con cui finanziano una guerriglia che continua nel nord-est della Repubblica Democratica del Congo. Da quasi 30 anni, i circa 700 rangers difendono non solo gli animali e la vegetazione presente nel parco, ma anche i circa 5 milioni di congolesi che vivono nelle aree circostanti, spesso vittime di violenza da parte delle milizie. Anche per questo i guardia parco stanno pagando un prezzo altissimo. Il parco negli anni, nonostante tutto, riusciva a resistere grazie ad alcune migliorie portate dal suo direttore, al lavoro dei rangers e a un turismo selezionato, ma negli ultimi anni, a causa anche della pericolosità stessa del parco, i turisti sono diminuiti e così le entrate, essenziali per le politiche di conservazione. A peggiorare la situazione l'epidemia di Ebola del 2008 e ora il coronavirus, che ha fatto definitivamente chiudere i battenti alla riserva. Questo per evitare che i primati potessero essere contagiati. Un rischio che nessuno può permettersi, visto che sono rimasti solo 604 gorilla di montagna nel parco. La tragedia umana, naturale e animale del parco del Virunga è una triste cartina tornasole di quello che è il nostro mondo oggi. Distruzione che si ritorce contro di noi, contro tutti. Il paradosso, a pensarci bene, è che ora potrebbe persino essere la specie umana a infettare gli animali. Una specie di salto di specie al contrario. Il coronavirus purtroppo continua a essere un po' il collante fino alla fine di questa puntata. Un'importante denuncia arriva ancora una volta da Sebastião Salgado. Il fotografo, in una lunga intervista pubblicata sul quotidiano La Stampa e anche su Ora News 24 in formato video, denuncia il conflitto aperto in Brasile dall'atteggiamento eversivo del presidente Bolsonaro, che incita la gente a violare la quarantena, mentre governatori e sindaci fanno i miracoli per contenere l'epidemia. Salgado spiega che la coalizione che lo ha portato al potere si sta disintegrando. Perfino l'esercito e le istanze securitarie nel paese lo hanno mollato. Salgado però è soprattutto preoccupato per il destino delle popolazioni indigene dell'Amazzonia. Con l'epidemia, l'IBAMA, l'Agenzia per la Protezione dell'Ecosistema Amazzonico, ha cessato in pratica di funzionare. In questo momento i territori amazzonici vengono invasi da orde di tagliaboschi, minatori e predicatori che stanno diffondendo il contagio nelle foreste. Gli indios sono a rischio di un genocidio simile a quello provocato 500 anni fa dai conquistadores europei. Per questo il grande fotografo chiede alla comunità internazionale di esercitare sul presidente Bolsonaro una pressione simile a quella già vista per difendere l'Amazzonia dagli incendi dello scorso anno. E con quest'ultima notizia noi ci salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima settimana con la redazione di Restiamo Animali, che è composta da Roberta Marino, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Zenone Sovilla, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco, Camilla Lattanzi e Francesca De Matteis, la voce che vi ha tenuto compagnia. L'appuntamento con la puntata numero 536 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, meno 30 minuti, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.